ti aspettiamo. Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Vi presenta... Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E ben ritrovati a Cuore e Denari. Nicoletta, buongiorno e buon lunedì. Buon lunedì e buona settimana a te e a chi ci ascolta. Allora, in un batter d'occhio eccoci qua, che siamo già a metà novembre. Vedrai che da qui all'anno nuovo il passo è rapido. Sembri mia mamma che stamattina alle 7:15 mi ha detto: ah, un passo è Natale. Mamma è vero. Mia, allora, continuando io sono allineata alla tua mamma, perché se te la devo dire tutta, ieri ho cominciato a prendere qualche regalo di Natale. Ecco. Vabbè, per i nipoti erano lì che mi aspettavano, certo. Cosa facevano? Glieli prendevo? Quanto mai. Però non sono proprio la consumatrice più irriducibile dell'universo, perché in Cina mi battono. Senti questa notizia. Vendite record per il Single Day, la festa dei single in Cina, un'idea del gigante dell'e-commerce Alibaba, che ha organizzato la giornata dedicata allo shopping e alle offerte online, giornata nella quale chi non ha la preoccupazione di accantonare risorse per un eventuale matrimonio può scatenarsi nel vero senso della parola. E si sono scatenati, si può, tra l'altro c'è anche una storia bellissima questa festa, perché è nata l'11 novembre, quindi 4-1 messi di fila, quindi anche un valore scaramantico, proprio in contrapposizione a San Valentino. L'anti-San Valentino cinese. L'hanno inventata un gruppo di studenti. Comunque, senti quanto hanno speso, lo ha riportato il Guardian, questo dato. In 7 minuti i cuori solitari cinesi, che si sono consolati della loro singoltudine, della loro solitudine, hanno speso $1.5 miliardi e in totale nella giornata si è arrivati a $17.7 miliardi, con una crescita degli acquisti del 32% rispetto allo scorso anno. Ammappate. E tu ti sei fatta gli occhietti a mandorla e hai comprato pure tu. Infatti io non ho comprato niente, perché non sono né cinese né single, e poi io sono una dell'ultimo momento. E quindi comprerò i regali, se li comprerò. Ma non è quest'anno. Vero, anche se in realtà tu, per esempio, un regalo me l'hai portato di recente, uno dei miei manichini, quelli lì. Non era Natale. Non perché era Natale. L'ho visto, perché e ho detto, con è per te, Deborah. Per me è Natale tutto l'anno. Brava. Andiamo con la dove arriveremo? Andiamo con la rassegna stampa, va. Ah, in realtà i nostri amici Laura Vanossi e Marco Lombardi in scaletta ci avevano anche messo: ricordate il numero verde e il numero per i messaggi, e chiedete se avete già comprato ai nostri ascoltatori qualche regalo in questo weekend. In quale caso, che cosa avete comprato? Mandateci anche la foto, va, che noi li riceviamo molto volentieri. Anche Massimo da Rimini ha comprato, anche su Alibaba. Davvero? Un pensierino per i suoi bambini. Bravo. Nel Single Day. Bravo. Massimo. Bravo. La borsa parte bene questa settimana, anche se Milano rallenta il passo. Era partita a razzo anche Piazza Affari con un rialzo di oltre un punto. Mantengono questo rialzo le altre piazze europee: più 1,24 Parigi, più 0,9% Francoforte, Londra più 1,13, Milano adesso più 0,45%. Un po' sparpagliata la situazione in Asia. Il Nikkei a Tokyo più 1,71% dopo il dato sul prodotto interno lordo del terzo trimestre, un terzo trimestre di crescita appunto piuttosto significativa, più 0,5% mese su mese, più 2,2% anno su anno. Mercato americano sempre su valori record, il Dow Jones ha toccato un nuovo record appunto venerdì scorso. Effetto Trump, che cos'altro? Stamattina lo chiediamo a Pietro Di Lorenzo, amministratore unico di SOS Trader, buongiorno. Buongiorno. Allora, dicevamo, sui mercati finanziari questo effetto Trump sta proseguendo molto bene sul mercato azionario, un po' meno bene sui titoli di Stato, che invece hanno preso ad essere venduti, tanto che i rendimenti hanno ripreso a salire. Abbiamo già discusso ampiamente anche settimana scorsa di questa curva dei rendimenti che ha ripreso appunto ad irripidirsi, così dicono appunto in gergo finanziario. Allora, ci fa un po' una fotografia di questa mattina, Di Lorenzo, come si parte e perché? Sì. Volentieri, partenza in rialzo, adesso si è un po' affievolito, i rumors parlavano di un'acquisizione fra Sogeni e Unicredit, francamente un rumors abbastanza, a mio avviso, inverosimile. Adesso ci stiamo assestando intorno alla parità, sono scattate un po' di prese di profitto. E infatti Unicredit cresceva tra il 4 e il 5% ad inizio seduta, adesso ha azzerato tutto, addirittura leggermente negativo. Quindi esatto, in realtà ha avuto una sospensione per eccesso di rialzo dopo 11 minuti, adesso sta correggendo, come dicevo il rumor era evidentemente inverosimile, ma l'elemento secondo me dei primi 90 minuti è questo sell off ancora sul BTP. Il 2037 vendite quindi sul decennale italiano, sì, decennali in realtà, e non su solo tutta su la tutta curva, la curva, sì, esattamente, piuttosto preoccupante per come la vedo io. Consideri che il 2037 ha perso il 18% negli ultimi tre mesi, una volatilità assolutamente impropria direi su un titolo di Stato che tipicamente è un diciamo uno strumento finanziario per chi non ha tanta voglia di volatilità, quindi grande tensione, i mercati sembrano scommettere con decisione su una instabilità italiana dopo il referendum, però considerando quanto ci stanno prendendo i mercati e i sondaggisti negli ultimi tre mesi. Bravo, infatti volevo arrivare lì io, tra l'altro, per cui diciamo che ecco, adesso la vigilia sarà un po' movimentata, esattamente come è stata durante la campagna elettorale americana, dopodiché al risultato acquisito anche per il referendum forse ci si stabilizzerà un po', ma insomma lo vedremo. Ha ragione a commentare il fatto che le previsioni a questo punto non sono più tanto credibili. Detto questo, noi ci proviamo, magari non facciamo previsioni di Lorenzo, commentiamo appunto la giornata. Dicevamo fermento sulla galassia Unicredit, sul settore bancario come sempre, adesso va molto bene Exor, la holding di casa Fiat, più 4,73%. Quali titoli teniamo sotto osservazione questa settimana? I titoli secondo me più interessanti, vedo una Generali che dopo i risultati che sembravano un po' ondivaghi, ma in realtà a mio avviso sono positivi, potrebbe rientrare al centro interesse del mercato, un titolo solido che è sempre piaciuto al risparmiatore italiano, un STM molto forte anche in virtù di quello che sta succedendo sul mercato dei microchip e semiconduttori in America, e una Ferrari che oggi tocca nuovi massimi e potrebbe essere in qualche modo all'interno di questo, diciamo, dei settori dei quali beneficerà per questa nuova presidenza, certo. Trump. No, tra l'altro è anche vero che il cavallino rampante ha promesso un dividendo più generoso rispetto a quello distribuito fino a questo momento, quindi magari il mercato cerca questo titolo anche per queste ragioni o no? Assolutamente, credo anche in virtù di quanto sta succedendo su Apple, che sembra voglia entrare nel mondo dell'auto. E quindi di fatto Ferrari è quotata in questo momento a multipli che sembrano più di una società del lusso che di una società auto. Onestamente è quotata a multipli un po' cari, però la percezione del mercato è di un bene di lusso piuttosto che di uno strumento che serve per muoversi, quindi fin quando il mercato ha questa percezione ben venga. E infine ci sono storie un po' penalizzate, secondo me, a mio avviso un po' troppo, come Eterna, che è un titolo molto bastonato negli ultimi tempi, che a contatto con quest'area qui, 4 euro, potrebbe essere, perché ha una logica di medio-lungo termine, soprattutto ama magari anche i dividendi, certo, potrebbe essere una buona storia da prendere in considerazione. È che abbiamo commentato negli ultimi giorni di questa gigantesca rotazione settoriale in corso, proprio a seguito delle elezioni appunto del presidente Trump, il mercato si è posizionato su titoli che erano proprio scomparsi dalle pagine di cronaca finanziaria degli ultimi tempi, le costruzioni, appunto il comparto farmaceutico, quindi un po' tutti questi energetici anche molto legati all'andamento del prezzo del petrolio. Oggi il mercato li abbandona probabilmente, anche perché comunque il petrolio scende, siamo tra i 43 e i 44 dollari al barile, anche questo è un tema forse da monitorare di nuovo. Di Lorenzo, che dice? È chiaro, sì, settimana scorsa è stata una settimana estremamente volatile per le principali asset class, a cominciare dal petrolio e l'oro, grosso sell off sul petrolio, ma anche in virtù dei dati dell'OPEC che in qualche modo hanno mostrato una crescita della produzione. In realtà secondo me il ragionamento adesso è che siamo di fronte a delle scosse di assestamento dopo un evento abbastanza shock. Quindi, esatto, esattamente come nel centro Italia ce l'abbiamo anche nel mercato finanziario, la scossa di assestamento. Esattamente, meno diciamo drammatiche rispetto alle prime, ma in ogni caso spesso questi shock nascondono dei rischi ma anche delle opportunità, quindi quando si vedono dei titoli, diciamo, secondo me, a mia avviso preciso delle storie robuste come Eterno, magari Snam Rete Gas, così penalizzate, per chi magari ha una logica di medio termine potrebbe essere anche un'opportunità di ingresso. Grazie, esatto. Grazie a Pietro Di Lorenzo, devo salutarle. Intanto si sta rafforzando ancora considerevolmente il dollaro, l'euro è sceso a 1,0741 in una giornata che era partita, lo ribadisco, con un rialzo di oltre un punto a Piazza Affari e tutti e 40 titoli del FTSE MIB erano positivi. Adesso siamo a più 0,21% e la lista invece dei titoli negativi con ribassi di oltre un punto si sta ampiamente appunto allargando. Volatilità davvero alle stelle e io molto velocemente invece do la linea al traffico e poi torniamo con la rassegna stampa di cuore. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Cuore e denari. Tempo, comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se colpire. Il tempo corre veloce, non c'è tempo per annoiarsi. Siamo al 14 novembre, è passato un anno dall'ultima giornata mondiale del diabete che festeggiamo, pensate un po', da un bel quarto di secolo, da quando nel lontano 1991 l'IDF, che è un'organizzazione ombrello che comprende 230 associazioni che si occupano di diabete in oltre 170 nazioni del mondo, e l'OMS decisero di istituirla. Ma nonostante l'impegno, i tanti buoni propositi e le dichiarazioni di intento di fare qualcosa, i numeri di questa malattia non accennano a diminuire. Sembra quasi un'epidemia inarrestabile. Sono 415 milioni, parliamo di milioni, le persone con diabete nel mondo, e purtroppo le previsioni non sono affatto buone. Per questo, ebbene, non perdere di vista il problema, ne parliamo oggi, aprire gli occhi sul diabete, questo è il messaggio della giornata di quest'anno, un messaggio che ha il doppio significato: da un lato di non perdere di vista questa patologia così devastante nei numeri e nelle conseguenze, ma anche di non trascurare una tra le principali complicanze del diabete, che è la retinopatia diabetica, che può arrivare a far perdere la vista. In linea con noi per sottolineare i messaggi della giornata abbiamo il piacere di avere il presidente della Società Italiana di Diabetologia, e quindi salutiamo il professor Giorgio Sesti. Deborah, che è venuto a trovarci a Cuore Denari. Volentieri, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, professor Sesti, occhi aperti. La lotta al diabete, tra l'altro, è una delle tre emergenze sanitarie identificate dall'ONU e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme alla malaria e alla tubercolosi, ma è l'unica delle tre ad essere una malattia non trasmissibile, il che ci dovrebbe spingere a fare qualcosa, ad essere consapevoli. Esatto, come appunto hanno sottolineato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il diabete è un'epidemia come queste infettive, perché sì, i numeri, come avete dato, sono impressionanti. Per dare un numero italiano, dati ufficiali dell'Istat dice che 5 milioni di cittadini italiani soffrono di diabete, il problema è che ben un milione non sa di averlo. Esatto. E quindi ha delle conseguenze enormi. Poi un recente studio fatto su 195 paesi in cui sono stati analizzati quasi 300 malattie ha fatto vedere che negli ultimi 10 anni si muore di diabete del 32% in più, quando tutte le altre malattie, compresi tumori o malattie neurodegenerative, sono invece in calo. Quindi la malattia diabetica è inarrestabile. Per dare un altro numero impressionante dell'epidemia, ogni 6 secondi muore una persona nel mondo per diabete. Questi sono i dati impressionanti della malattia, che ci aiutano ad aprire gli occhi sul diabete. Questo è appunto il messaggio della giornata di quest'anno. Occhi aperti anche per le complicanze, professore. Prima fra tutte la retinopatia diabetica, che può essere prevenuta con un buon controllo della malattia. Esatto, io adesso ho dato le notizie brutte, adesso do anche quelle buone. Bravo, se allora, no non la invitiamo, se no non possiamo invitarla più. No, penso sempre positivo, però bisogna accorgersi che la malattia diabetica non bisogna sottovalutarla. Assolutamente. La cecità, che quindi è la complicanza oculare, è la prima causa per le persone in attività lavorativa di diabete, è la prima causa di cecità, quindi bisogna stare molto attenti. La buona notizia è che la malattia, se curata adeguatamente, può fare bloccare la retinopatia, può farla prevenire. Mm-hmm. Occorre fare uno screening della retinopatia, per cui è molto importante che tutti i malati diabetici siano seguiti nei centri per la cura, e per fortuna in Italia abbiamo una rete che funziona molto bene, tant'è vero che curiamo la malattia meglio di qualsiasi altro paese europeo. Ecco, lo vogliamo dire, professore, lo ridica per bene. Che questo, allora, ridico piace. Due cose importanti. Sì. Primo, noi curiamo meglio delle altre nazioni europee, perché quando andiamo a vedere le complicanze o le mortalità nel nostro paese sono inferiori a quelli di altri paesi europei. Perché? Sì. Perché abbiamo una rete capillare che funziona bene. Però attenzione, perché questa rete per tagli di spesa alla sanità è attualmente sotto le cure, le cesoie delle spese regionali, per cui bisogna, è il messaggio forte che vogliamo dare alla cittadinanza, bisogna mantenere questo gioiello che c'è in Italia. Certo. Il secondo aspetto è estremamente importante, lo dico come società scientifica, l'eccellenza assoluta della ricerca italiana nel diabete. Gli italiani sono alla terza posizione mondiale per qualità della ricerca, quindi compresa anche per la retinopatia, che è una delle nostre eccellenze. E se però noi rapportiamo questo ai finanziamenti pubblici e privati per la malattia diabetica, l'Italia supera le due nazioni che ci stanno per ora sopra, cioè anche Stati Uniti e Inghilterra. Quindi esiste un'eccellenza della ricerca diabetologica che purtroppo è sottofinanziata anche attraverso il crowdfunding. Quindi con poco noi riusciamo a fare tanto. È esattamente la solita storia italiana. Ecco. Noi ci siamo ingegnosi e riusciamo con poco a fare tanto. Però faremmo questo non di deve... Più? No, perché faremmo molto di più se ci fossero, esatto, più supporti alla ricerca. Professore, lei ha sottolineato un dato. 1 milione di italiani che hanno il diabete ma non sanno di averlo. Sì, questo è il problema maggiore, perché in realtà mentre quei 4 milioni li conosciamo, li seguiamo e li curiamo bene, questo milione non li conosciamo, perché in Italia si fa poco screening. Occorre invece che alcuni soggetti che sono a rischio di malattia, e che si sa molto bene quali sono queste popolazioni a rischio, occorre che fanno un semplice prelievo a digiuno per misurare la glicemia, in modo tale che sia diagnosticata correttamente la malattia. Allora, di prevenzione, di stile di vita, di cura, di segnali che possono e devono essere conosciuti ed intercettate per evitare che la malattia ci rubi salute, quindi qualità di vita, parleremo oggi nel corso della prima parte di Cuore Denari. Ci ha raggiunto anche il professor Emanuele Bosi, primario di diabetologia e direttore del Centro di Ricerca sul Diabete del San Raffaele. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Nicoletta e Deborah, buongiorno al professor Sesti. Allora, professor... Bene. Professore, allora ci passiamo un po' al testimone. Grazie per essere stato con noi, al professor Sesti, per aver illustrato e sottolineato i messaggi chiave di questa giornata. Professore, grazie, buona giornata. Voi, buona giornata a tutti, grazie. E noi continuiamo col professor Bosi. Prima di dare la linea al nostro GR, parola chiave, professor Bosi, prevenzione. Perché il diabete si può prevenire, abbiamo il dovere di farlo, ma anche quando venisse diagnosticata la malattia è bene prevenire le complicanze. Stiamo parlando di diabete di tipo 2, ma anticipiamo che oggi nel corso della nostra puntata parleremo anche di diabete di tipo 1. Ci sono delle novità di cui vogliamo parlarvi. Professore, in un minuto. Allora, per quanto riguarda il discorso della prevenzione, della diagnosi precoce, per quanto riguarda il diabete di tipo 2, occorre sottolineare che la prevenzione più efficace è quella che si opera agendo sui fattori di rischio. E i fattori di rischio che contano di più riguardano lo stile di vita. Quindi le persone che seguono una alimentazione corretta e che svolgono una regolare attività fisica hanno un rischio significativamente minore rispetto ai soggetti sedentari, sì, ai soggetti che si alimentano in eccesso. E noi partiremo proprio da qua, professor Bosi. Prevenzione, stile di vita, adesso GR, poi di nuovo insieme. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. cuore e denari. Come stai? Ti trovo bene. Sì, adesso Carlo si è laureato. Lui e la sua ragazza sono andati a vivere insieme. Lavorano tutti e due. Io lavoro ancora per 4 anni, poi vado in pensione. Nel frattempo mi tengo su, vado a ginnastica e ho ripreso a studiare inglese. Brava, che donna, ma Franco è proprio fortunato. Come sta? Sempre in gamba? Ma sì, dai, bene. Ha un po' di diabete, ma sai com'è. Qualcosa bisogna avere. Eccolo lì, un po' di diabete. Ho riportato, chiedendo l'aiuto dei nostri speaker Maurizio Esposito e Alessandra De Luca, una conversazione a cui ho assistito personalmente, che vi riferisco e che riferisco al nostro ospite, il professore Emanuele Bosi, che è in linea con noi. Professore, gliela riferisco non per fare la spia, ma per fare una riflessione a voce alta sul vissuto del diabete, una malattia che è conosciuta ma un po' sottovalutata, tanto che si dice ha un po' di diabete. Ci aiuti un po' a inquadrare il problema partendo proprio da questo modo di dire? Sì, devo dire che l'esempio è molto pertinente, perché sottolinea come il diabete, che in fondo corrisponde a una condizione di iperglicemia, cioè di eccesso di zucchero nel sangue, abbia diversi gradi, cioè non è una malattia tutto nulla. E molte persone tendono a minimizzare, a sottovalutare il riscontro di una glicemia anche solo di poco alterata. E invece è molto importante identificare anche queste condizioni, perché il vero problema del diabete, oltre al diabete di per sé, che quando è molto alterato, diciamo, in termini di glicemia, dà anche dei disturbi, ma è particolarmente insidioso quelle forme di diabete iniziale, mm-hmm, in cui la persona non si accorge, a meno che misuri attraverso un esame del sangue la glicemia, sì, non si accorge di avere il diabete. Tuttavia, avere un po' di diabete, intendendo con questa affermazione generica ma molto frequente, in realtà significa portarsi addosso già un più aumentato rischio di sviluppare le complicanze del diabete. In primo luogo avere un rischio più elevato per le malattie cardiovascolari e poi avere il rischio delle complicanze specifiche del diabete, la retinopatia che avete menzionato prima, la neuropatia, la nefropatia, il piede diabetico, sono tutte condizioni che insorgono quando la glicemia è elevata. E quindi anche a chi ha un po' di diabete, intendendo anche la glicemia fuori controllo, fuori norma. Esatto, esattamente. Professore, facciamo subito una convocazione ai nostri ascoltatori da casa. Oggi ci rivolgiamo a chi è interessato sulle ultime novità sul tema, perché ce ne sono tante. Vogliamo anche invitare le persone a darsi una controllatina ogni tanto e soprattutto vogliamo invitare le persone che hanno casi in famiglia, cioè vivono con persone con diabete. Professor Bosi, partiamo dai valori della glicemia. A volte sono al limite o eccedono di poco il valore soglia. Sono in quella che viene definita zona grigia, quella che fa dire alla nostra signora della scenetta: mio marito ha un po' di diabete. Ma andiamo a sentire Carlo, che ci chiama da Vicenza. Buongiorno Carlo, benvenuto. Buongiorno a voi. Eccoci qua, ci racconti. Dunque, io ho un padre diabetico che è andato incontro ad una demenza e a un ictus. Io ho valori regolari sia di glicemia e anche di glicata. Sì. Però mi è stato detto, siccome sono leggermente in sovrappeso, ma svolgo regolare attività sportiva, mi è stato detto da una dottoressa che dovrei fare un esame che si chiama insulinemia, perché potrebbe trattarsi di prediabete. Allora, adesso ci fa... Grazie, Carlo, ha fatto il nostro inviato, ci ha raccontato la sua storia, una storia abbastanza comune considerato i numeri del diabete. Noi abbiamo in famiglia sicuramente una persona col diabete, se non nella nostra famiglia, un cugino, un parente, un collega. Carlo ha una familiarità, professor Bosi, ha fatto i controlli al padre con il diabete, ha una zona grigia, gli richiedono un'altra... Allora, ci metta un po', ci dia tutte le indicazioni. Iniziamo dai valori della glicemia e dalla familiarità. Allora, la familiarità ovviamente non è modificabile, e il fatto di avere un familiare di primo grado, quindi un genitore, un fratello, una sorella o un figlio con il diabete, espone la persona a un rischio aumentato. Tutto il resto è modificabile. Ora, i dati su cui ci si deve muovere sono i seguenti. La glicemia misurata a digiuno, che è una condizione standard, nelle persone normali è inferiore al valore di 100. Se invece è uguale o superiore a 126, parliamo di milligrammi per decilitro, quella misurazione è diagnostica per diabete. Poi tra 100 e 125 è una zona grigia intermedia che si chiama alterata glicemia a digiuno e che può essere prodromica al futuro sviluppo del diabete. Quindi se avete questa tra i 100 e i 125, quella che noi chiamiamo zona grigia, non è diabete ma non avete ancora i valori perfetti, quindi professore... È una zona di rischio. Che richiede degli approfondimenti e soprattutto richiede, se la persona è una persona adulta, magari un po' in sovrappeso, è una condizione che è reversibile attraverso l'adozione dei cosiddetti correttivi dello stile di vita, e cioè se vi è sedentarietà, intraprendere un'attività sportiva o meglio anche solo un'attività fisica. Vi sono persone totalmente sedentarie per le quali già 20 minuti di camminata con passo veloce possono dare il risultato. E l'altro elemento su cui si deve intervenire è quello dell'alimentazione. Alimentazione che deve essere ristretta in termini di calorie, laddove la persona presenti un sovrappeso o addirittura obesità. E idealmente sarebbe bene che la dieta fosse equilibrata, cioè con la giusta proporzione tra i vari nutrienti che sono i carboidrati, i grassi e le proteine. Allora, intanto, professor Bosi, voglio darle un po' il polso della situazione leggendole le domande che stanno arrivando al 349-238-6666. Quando sono i momenti giusti per misurare la glicemia? Lei ha detto un esame del sangue al mattino, è sempre così, professore? Sì, però mi scusi, concludo per rispondere all'ascoltatore precedente al quale era stato suggerito di misurare anche l'insulinemia. Dico che chiaramente la misurazione dell'insulinemia dà un'informazione aggiuntiva importante, ma non è strettamente indispensabile. Venendo ai tempi delle misurazioni della glicemia, la misurazione più standard è quella del mattino a digiuno. Poi, laddove si riscontrano delle alterazioni, è bene estendere l'osservazione della misurazione della glicemia, diciamo in altre circostanze prima dei pasti, quindi prima del pasto di mezzogiorno e prima del pasto serale, e 2 ore dopo il termine dei 3 pasti, cioè 2 ore dopo il termine della prima colazione, del pranzo e della cena. Il totale di un profilo così ideale sarebbe quello di 6 misurazioni. Non è che una persona che trova un'alterazione della glicemia debba necessariamente eseguire così numerose, se non magari una volta, misurazioni della glicemia. Va detto peraltro che oggi misurare la glicemia è abbastanza facile, non è che uno si debba recare presso un ospedale o presso un laboratorio per ogni singolo prelievo. Esistono queste modalità per cui con dei glucometri portatili e delle strisce reattive si può misurare in maniera molto precisa la glicemia attraverso una goccia di sangue ottenuta con un pungidito. Quindi la tecnologia aiuta anche il controllo e la gestione del diabete. Allora, la domanda da 1000 punti, ma l'abbiamo già anticipata, ma gliela rifaccio, professor Bosi. Buongiorno, diteci per favore la dieta per prevenire il diabete. Professor Bosi, innanzitutto lei ha sottolineato no al sovrappeso, la dieta deve essere varia ed equilibrata, ma vogliamo aggiungere, abbiamo degli aspetti da aggiungere? Ma guardi, quando si dice equilibrata si dice tutto e niente, però la giusta proporzione tra carboidrati, proteine e grassi. Mm. Va detto che negli anni scorsi e anche attualmente hanno preso piede diverse tipi di diete. Mm. Ai tempi c'era la famosa dieta zona, oggi è più popolare la Dukan. Sono comunque sostanzialmente dei regimi alimentari che vengono proposti a persone con obesità che fanno molta fatica a perdere peso. Sì. Perdere peso non è semplice, perché l'equivalenza, diciamo, per cui riduco le calorie, aumento l'attività fisica e automaticamente perdo peso, è valida in molte persone, ma non in tutte. Ce ne sono alcune che fanno oggettivamente fatica a scendere. Farmaci contro l'obesità fondamentalmente non ce ne sono, i più efficaci erano utilizzati in passato, ma sono stati tolti perché erano pericolosi, erano sostanzialmente le anfetamine che funzionavano, ma poi esponevano, erano pericolosi alto. In buona sostanza. E poi ci sono altri farmaci adesso, ma diciamo che perdere peso per chiunque è sempre difficoltoso. Ora, se il sovrappeso è associato al diabete, cosa che spesso succede, la dieta ideale è comunque quella cosiddetta equilibrata, che è anche quella con cui si perde peso più lentamente, e questo spesso rappresenta un elemento di frustrazione per la persona che dice: faccio tanti sacrifici e vedo pochi risultati. In realtà poi, se la tenacia è mantenuta, anche una persona che perda poco, e per poco si intende magari un chilo al mese, significa che comunque in un anno di chili ne ha persi 12, e questo, sono significativi. Questo tipo di obiettivi è tutt'altro che trascurabile. Andiamo a Marco, che ci chiama da Milano. Buongiorno, buongiorno. Marco. Buongiorno. Eccolo. Dov'è? Eccolo qua. Dove è finito, Marco? Eccomi. Eccolo. Io sono Marco, ho 34 anni e sono, ahimè, affetto da diabete. L'ho scoperto da 2 anni andando a fare la prima donazione di sangue all'Avis. Bravo, Marco, che l'ha ricordato, perché sono arrivati tanti messaggi che avrei letto di donatori che dicono: andate a donare il sangue, è il modo migliore per anche intravedere o individuare precocemente dei segnali importanti per la nostra salute. Quindi lei, donatore, l'ha scoperto donando. Esatto, bene. Esatto. Ho una glicemia di 182 a digiuno, ho una emoglobina glicata che, stando ai diabetologi, è il parametro da seguire per capire se di 8.2 quando avrebbe dovuto essere 6. E quindi io ho intrapreso tutto l'iter di visite e adesso sono in cura all'Istituto Oxologico di Milano. Quindi l'hanno messa a dieta, le dicono di darsi da fare, attività fisica e il controllo del diabete. Ma la sua domanda, Marco? La mia domanda è questa: io sono oramai quasi guarito, no, perché comunque ora ho un 80 a digiuno e un 6 di emoglobina. Sto per diventare padre. Auguri, che bella. Grazie. Notizia. E la domanda voglio sapere se mio figlio, come farò a capire se anche lui è diabetico già da piccolo, perché io ho una paura terribile che questo bambino nasca diabetico. Allora, Marco, passiamo subito al professor Bosi. Nell'intervento di Marco ci ha messo sul tavolo tante indicazioni: l'emoglobina glicata, la possibilità di diabete del padre, teme per il figlio. Mettiamo i puntini sulle i rapidamente per prima, e poi passiamo anche alle novità e parleremo anche di diabete di tipo 1. Professor Bosi. Certo, infatti la mia prima domanda è un chiarimento all'ascoltatore, perché per età volevo sapere se la diagnosi in lui è poi stata di tipo 1 o tipo 2. Professore, non mi ricordo, comunque quello dove non è necessaria l'insulina. Tipo dove non è 1. Necessaria. Allora, se non è necessaria l'insulina, il rischio che il figlio sviluppi il diabete è piuttosto contenuto, e quindi è nell'ordine del 2-3% nell'arco della vita. Bisognerebbe poi fare ulteriori accertamenti, perché lei ha comunque sviluppato un diabete in età giovanile, era in sovrappeso? Avevo anche smesso di fare sport, cosa che ho ripreso. Allora, perché bene, il professor comunque, Bosi diciamo fa queste due... Scusi, professore. Bisogna vedere professore, bene che tipo professore, di diabete. Comunque... Sì. Non sente. Professore, mi scusi, è importante che i nostri ascoltatori sappiano che c'è un diabete di tipo 1 e un diabete di tipo 2. Questo giustifica la domanda che lei ha fatto al nostro ascoltatore per capire quale tipo di diabete avevano diagnosticato. E, è corretto? Sì, dicevo che è importante sapere se è una forma di diabete di tipo 1 o di tipo 2, perché il rischio genetico per la progenie, diciamo, è diverso. In ogni caso, per dare un messaggio semplice, è piuttosto basso. Se si tratta di diabete di tipo 1, il rischio per un figlio è tra l'1 e il 2%. Se si tratta di un diabete di tipo 2 ad esordio giovanile, dipende molto dai fattori di rischio, quindi il futuro bambino è bene che segua sempre un'alimentazione corretta e che eviti fondamentalmente il sovrappeso. Professore, negli ultimi minuti della prima parte di Cuore Denari vogliamo parlare anche di novità per il diabete di tipo 2 e di novità per il diabete di tipo 1. Professore. Allora, di novità ce ne sono tante, molte, per fortuna. Devo dire, sì, per fortuna. Per quanto riguarda il diabete di tipo 2, devo dire che gli ultimi 10-15 anni sono stati veramente anni ricchi di novità per la terapia. E abbiamo avuto, oltre alle insuline, abbiamo avuto che si sono perfezionate le insuline, poi ne parliamo per il tipo 1, ma nel tipo 2 abbiamo avuto almeno due nuove classi di farmaci completamente nuove, che consentono di arricchire l'armamentario terapeutico a nostra disposizione di farmaci sia orali e anche di farmaci iniettabili che non sono l'insulina. Tutto questo consente di riuscire a ottenere l'obiettivo terapeutico, che è quello di normalizzare la glicemia e di ridurre quel parametro che ricordava l'ascoltatore prima, che si chiama emoglobina glicata e che è un parametro che riassume l'andamento medio della glicemia degli ultimi 3 mesi. L'obiettivo è quello di ridurlo al di sotto di 7, meglio ancora al di sotto di 6,5, affinché il diabete nel corso degli anni non produca problemi. Quindi, prevenire le complicanze del diabete, per prevenire le complicanze del diabete occorre tenere sotto controllo la malattia. E questo oggi che non è facile, perché tenga presente che quasi la metà delle persone con il diabete di tipo 2 non raggiunge questo obiettivo. Quindi sembra una malattia banale, sembra semplice ottenere i risultati terapeutici, la persona sta benone, quindi è poco preoccupata, e invece bisogna fare attenzione ai numeri che provengono dagli esami del sangue e far sì che quei numeri ci dicano che la situazione è sotto controllo. Non bisogna accontentarsi, è un po' come succede anche per la pressione. Il tempo è poco, in un minuto e mezzo riesce a darci delle indicazioni sulle passi avanti che sono stati fatti nel trattamento e le novità sul diabete di tipo 1? Certamente sì. Allora, come accennato prima, per il diabete di tipo 1 disponiamo di insuline ancora migliorative rispetto alle formulazioni che una ulteriore evoluzione tecnologica degli strumenti che si chiamano microinfusori, che erogano l'insulina in continuo, sono delle piccole pompe indossabili che si utilizzano nelle persone nelle quali con le iniezioni di insulina non si riesce a raggiungere il controllo ottimale. E infine c'è la speranza della ricerca, perché finora abbiamo citato esempi di terapie ottimali e oggi il diabete, grazie a tutte queste novità, siamo in grado di trattarlo molto meglio rispetto al passato. Ma l'obiettivo finale della ricerca è quello della guarigione, cioè si tende ad avere come obiettivo quello per cui una persona col diabete oggi, un domani, non abbia più il diabete, quindi non debba più assumere terapie, non debba più misurare la glicemia. E questo lo si può raggiungere attraverso diverse strategie di ricerca. Quella che noi al San Raffaele perseguiamo, tra le altre, è quella del trapianto e delle terapie cellulari, che dovrebbero consentire alla persona, soprattutto con il diabete di tipo 1, di ridiventare indipendenti dall'insulina. E questa è una bellissima notizia che vogliamo sottolineare in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. Credo che il professor Bosi abbia messo proprio l'accento su un aspetto fondamentale, sull'impegno della ricerca, e che potrebbe liberare proprio dalla malattia le persone che si confrontano con il diabete. Professor Bosi, la ringraziamo per essere stato con noi. Chiediamo agli ascoltatori, che sono intervenuti numerosi, hanno mandato mail, sms, hanno contattato il nostro numero verde, di scriverci, perché come sempre Cuore Denari lavora anche al pomeriggio, soprattutto il pomeriggio, mette a lavorare gli altri, che questa è ancora più bella. Professor Bosi, grazie per essere con noi, buona giornata. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Andiamo a sentire i mercati? Vi racconterei la borsa, sì, adesso. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Carissimo contribuente, sì? Per te Equitalia finisce qui. Ah, ma allora è vero che vuole rottamare Equitalia? Io tolgo le more come atto di amore. Vabbè, ma non faccio... Come diceva quell'altro grande fiorentino prima di me. Chi? Le mor che non pagate, amor condona. Lasci stare Dante. Nicoletta si sta... Dio. Ammazzando dalle risate. Guarda. Sì, devo dire che allora mi crolla tutto il mascara. Crozza che fa Renzi è veramente eccezionale, anche se il mio preferito continua a rimanere Mentana e la maratona televisiva, però insomma, a parte tutto questo sketch di Maurizio Crozza lo abbiamo utilizzato per introdurre il fatto che entra nel vivo, no, l'altro fiorentino, l'altro grande fiorentino prima di me. Oh, mamma. Entra nel vivo, ripristiniamo la serietà. Entra nel vivo l'operazione di rottamazione delle cartelle esattoriali. Da qualche giorno sul sito di Equitalia, che ancora esiste, sono state pubblicate le istruzioni per compilare la dichiarazione di adesione alla cosiddetta definizione agevolata, tanto per parlare chiaro. Sì. In corsa intanto sono arrivati dei cambiamenti a proposito della tempistica entro la quale, per chi lo farà, il modello deve essere compilato e consegnato. All'inizio il tutto doveva essere fatto entro il 23 gennaio prossimo, ora si ha tempo fino al 31 marzo. I modelli si potranno consegnare fisicamente agli sportelli di Equitalia, visto che ancora c'è, oppure inviati per mail agli indirizzi di posta elettronica o PEC delle direzioni regionali. Equitalia ha anche reso disponibile una guida alla compilazione, me la sono andata a guardare, anzi ce l'ho proprio aperta qui davanti a me, quindi se volete so tutto. E anche per chi avesse già presentato l'istanza avrà tempo sempre fino al prossimo 31 marzo per poterla integrare. Allora, è tutto così semplice secondo te? No, ogni tanto mi viene il dubbio che facciano dei test per misurare il nostro quoziente intellettivo, ma io sono molto bassa. Per niente affatto è così semplice, tanto che oggi anche il Sole 24 Ore dedica diverse pagine alle cosiddette insidie delle cartelle. Ecco perché abbiamo ritenuto necessario fare un riepilogo della situazione. Allora, quali cartelle potranno essere oggetto di definizione agevolata? Con che sanzioni? Come è finita la storia delle multe stradali? E novità degli ultimi giorni, Equitalia ci manderà il famoso SMS per avvisarci dell'arrivo della cartella e della possibilità di rottamarla. Chissà se sa tutto, certamente che lo sa, altrimenti non avremmo chiamata. Rosanna Cerno con noi stamattina, commercialista esperta di temi fiscali delle Sole 24 Ore, la grande nostra esperta proprio delle rateizzazioni fiscali e di tutto questo meccanismo che è necessario mettere in campo quando con il fisco siamo un po' in difficoltà. Buongiorno dottoressa Cerno, benvenuta, ben ritrovata. Buongiorno a voi e grazie per la fiducia. La nostra esperta del lunedì, che in genere questi temi cadono proprio sempre all'inizio della settimana, così tanto per farla partire perché in maniera un po' indigesta. Perché così ti fanno passare l'appetito e uno può iniziare a mettersi un po' a dieta. E combatti il diabete, hai visto quante ne sappiamo. Allora, dottoressa Cerno, no, andiamo un po' subito alla questione dell'SMS, no? L'operazione Semiscordo, con cui Equitalia vuole proseguire nella riforma del modello di riscossione e nel contempo costruire un nuovo rapporto con i contribuenti. Ci arriverà anche l'SMS nel caso in cui appunto fosse necessario rottamare una cartella? Allora, in verità l'SMS per la cartella da rottamare no. Quello che è stato previsto come ultima novità è perché è stato esteso anche a tutto il 2016 la possibilità di rottamare i carichi affidati ad Equitalia, potrebbe accadere che nei primi mesi del 2017 Equitalia ci notifichi, in verità per posta, quindi non proprio per SMS, una lettera in cui ci dica che abbiamo la possibilità, anche se non abbiamo ricevuto una cartella di pagamento, di sanare qualcosa che è relativo al 2016 e che non ci è ancora arrivato. Ecco, questo dovrebbe essere. Senta, poi la accantono subito questa parte dedicata all'SMS, al semiscordo, ma in realtà appunto che tipo di segnalazioni ci fa Equitalia attraverso questa modalità? Con l'SMS Equitalia ci sta dicendo semplicemente, questa è una cosa insomma dell'ultima ora, ci dice che appunto magari stiamo per ricevere una cartella di pagamento, quindi prima che ce la notifichi attraverso posta o PEC ci può dire che appunto abbiamo un debito e che quindi possiamo regolarizzare il tutto attraverso una rateazione o attraverso un pagamento in un'unica soluzione. Dobbiamo dare per scontato che naturalmente abbiano il nostro numero di cellulare. Equitalia ce li ha? Oppure perché mi pare che ci debba essere una sorta di consenso affinché possiamo ricevere questa comunicazione tramite SMS, giusto? Esattamente, sì, perché da poco è cambiato anche il sito di Equitalia, è molto più amichevole e quindi è possibile comunque registrarsi presso il sito di Equitalia e quindi avere, come dire, una possibilità di comunicazione diretta. E insomma, fateci presente, lo chiedo ai nostri ascoltatori, nel caso in cui questo simpatico SMS, questa operazione se mi scordo vi sia già arrivato, raccontatecelo all'800 24 00 24, così tanto per curiosità. Detto questo, vorrei andare invece al tema della cosiddetta definizione agevolata. Dottoressa Acerno, allora abbiamo detto che tra le novità proprio degli ultimi giorni è arrivato questo allungamento dei termini di presentazione degli eventuali appunto modelli ad Equitalia se si volesse appunto utilizzare sulla propria posizione di contribuente l'opzione della rottamazione della cartella. Allora è importante questo slittamento da fine gennaio a fine marzo? Sicuramente importante, perché con questo slittamento di pochi mesi è stato inserito anche l'anno d'imposta 2016. Cioè, voglio dire, adesso avremo la possibilità di definire in maniera agevolata tutto ciò che è passato, è stato affidato all'agente della riscossione, quindi ad Equitalia, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Quindi per intenderci, se abbiamo avuto anche una contravvenzione stradale o comunque un'iscrizione a ruolo di imposte relative al 2016 che sono state affidate quindi ad Equitalia nel 2016, queste anche possono essere oggetto di rottamazione. Certo, poi contestualmente ovviamente con la possibilità di presentare in termini un po' più avanzati il modello con la richiesta di rottamazione, al contempo anche all'agente della riscossione viene dato più tempo per rispondere a queste istanze presentate dai contribuenti, no? C'è uno slittamento di conseguenza. Esattamente. Sì. E quindi noi dobbiamo presentare la domanda entro il 31 marzo 2017 e al tempo stesso Equitalia ha tempo fino al 31 maggio 2017 per darci la risposta, soprattutto diciamo fare il conteggio definitivo e dirci quanto dobbiamo pagare. Senta, nel caso in cui appunto si presenti l'istanza di rottamazione, l'istanza di adesione alla cosiddetta definizione agevolata, tanto perché almeno cerco di farmelo entrare in testa questa modalità appunto di chiamare l'operazione, Equitalia può anche dire no al contribuente che fa richiesta, non ti voglio far rottamare appunto la tua posizione pregressa? Beh, dice no se non è possibile rientrare in questa missione, perché lei sa che ci sono comunque delle esclusioni, quindi è possibile magari che un contribuente anche in buona fede provveda ad inoltrare questa richiesta, ma magari il suo ruolo non entri in questa definizione agevolata, perché ci sono comunque delle esclusioni. Certo. Ci fa un esempio di esclusione? Quindi magari spieghiamo subito a quale contribuente non deve perdere tempo a fare la domanda? L'IVA all'importazione o ancora tutte le spese relative alle condanne di giustizia. Tra l'altro le dirò che le novità degli ultimi tempi parlano anche di violazioni non fiscali che sono escluse. Cioè, cosa voglio dire? Può accadere che un contribuente abbia ricevuto una contestazione di sanzione, quindi abbia in piedi una cartella di pagamento relative a sanzioni che sono state erogate dall'antitrust, dalla Consob, sì, o anche pensiamo alle sanzioni che vengono erogate ai professionisti per il mancato rispetto degli obblighi sull'antiriciclaggio o sul lavoro nero. Cioè, però sono situazioni, sì, esatto, abbastanza allora, marginali. Allora in questo caso sembrerebbe, dalle novità che sono emerse la settimana scorsa, che queste sanzioni non siano rottamabili. E quindi ci sono queste esclusioni, certo, perché rimangono invece in piedi soltanto le contravvenzioni stradali. Noi però, esatto, siccome è un capitolo molto ampio, allora a questo capitolo dedichiamo la seconda parte del programma. Adesso c'è il traffico, torniamo subito. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Cuore e denari. Allora, noi e il fisco, ci sono le istruzioni per compilare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, cartelle da rottamare, ma prima di entrare nel ampio capitolo delle multe stradali, il nostro pregresso se abbiamo violato il codice della strada, c'è un'informazione di servizio che mi preme darvi. Lo so. Investire informati. So, non è giovedì, è lunedì, ma... per fare tutti i giorni della settimana c'è anche venerdì, c'è Investire Informati Live. Vi siete iscritti al nostro appuntamento? Andate sul sito di Radio 24, c'è un format da compilare. Poi non daremo i vostri dati ad Equitalia, naturalmente, per mandarvi il famoso SMS. Brava. Ma solamente ci servono delle informazioni per costruirvi l'accredito per entrare venerdì pomeriggio alle 18 nella sede del Sole 24 Ore, dove c'è Investire Informati Live. Ho chiamato a raccolta tutti gli ospiti che abbiamo avuto in questo anno e mezzo. Una squadra. Una super squadra per fare un punto della situazione su quello che abbiamo imparato, appunto, in questo percorso. Investire Informati Live, quindi iscrivetevi www.radio24.it, la vedete nella prima pagina, è impossibile non trovarla. Ci cadete proprio dentro. Esatto. Compilate, iscrivetevi e venite. Allora, Rosanna Cerno, dottore commercialista, con noi questa mattina per spiegarci i segreti di questa definizione agevolata. Prima di andare alle multe, adesso ci sono anche degli ascoltatori con delle domande, le chiedo appunto il cosiddetto perimetro della rottamazione, appunto, rifacendo la lista della spesa, l'ABC, di che arretrato fiscale stiamo parlando? Quali sono i carichi fiscali che saranno interessati dalla rottamazione? Oltre al tema delle multe che adesso affrontiamo. Allora, intanto parliamo di tutte le somme che sono state affidate agli agenti della riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate dal 2000 al 31 dicembre 2016. Questo vuol dire quindi che le somme sono state affidate perché, ad esempio, ci è stata accertata una maggiore imposta sul reddito, quindi possono essere rottamate tutte le imposte, cioè voglio dire tutti i ruoli relativi all'IRPEF, all'IRES o alla vecchia IRPEG, ancora all'IVA, l'IRAP, quindi tutte le imposte e tributi, anche i tributi locali, quindi anche quelli relativi a comuni, che hanno affidato le somme all'agente della riscossione e quindi nella maggior parte dei casi ad Equitalia. Ovviamente in questo caso, ecco, una cosa importante da dire, non bisogna fare riferimento alla notifica della cartella di pagamento, cioè a quando la cartella di pagamento è stata ricevuta, ma piuttosto a quando le somme l'Agenzia delle Entrate li ha affidati a questo agente, certo, della riscossione. Questo è un punto importante perché come dire, rappresenta il tema fondamentale per capire anche come funzionerà con le multe stradali, che devono essere che generalmente vengono appunto erogate dalla polizia municipale, che fa capo al comune, e non è detto che il comune abbia affidato ad Equitalia appunto il compito della riscossione dei tributi no sul territorio, multe comprese, dottoressa Cerno. E qui, sì, e questo è il punto che rende molto complicata la questione delle multe. A che punto siamo? Allora, siamo a questo punto che volevo fare questa premessa. Come giustamente ha detto lei, i comuni in verità hanno da sempre avuto la possibilità di affidarsi ad Equitalia per la riscossione dei propri tributi, ma hanno avuto anche la facoltà e la possibilità invece di non affidarsi ad Equitalia e di riscuotere in proprio queste somme dovute o anche affidandosi ad altri soggetti. Allora, mentre Equitalia ci notifica una cartella di pagamento per appunto chiederci il pagamento coattivo, quindi non spontaneo, di una multa o di un tributo locale se il comune si è affidato ad Equitalia, i comuni che invece non si sono affidati ad Equitalia provvedono con la cosiddetta ingiunzione fiscale, che non è altro che un'intimazione ad adempiere a questo pagamento, quindi non è una cartella, certo, di pagamento. E quindi non si può rottamare con le modalità previste nel caso che abbiamo spiegato fino ad ora, con la definizione agevolata. Allora, in verità la settimana scorsa c'è stata un'apertura, c'è stata un'apertura, perché la settimana scorsa, venerdì scorso, anzi giovedì sera, sono stati apportati alcuni emendamenti, quindi alcune correzioni a questo testo di decreto legge, che però è sempre in fase di conversione, quindi dovremo vedere poi il testo finale. Però c'è questa apertura a questi comuni, nel senso che i comuni che vorranno aderire a questa rottamazione lo potranno fare dimostrando questa facoltà e sempre pubblicando sul proprio sito questa nuova possibilità. Chiarissimo. Quindi viene, Bene? Viene data quindi questa possibilità anche ai contribuenti che hanno ricevuto un'ingiunzione fiscale e non una cartella di pagamento, comunque di rottamare, ovviamente se parliamo di multe stradali, soltanto gli interessi. Allora, prima di salutarci, dottoressa Cerno, due domande con due questioni assolutamente rilevanti da parte di due ascoltatori. Luca da Ancona, buongiorno. Allora, in quante rate si può appunto mettere a posto la propria posizione? 5, da quello che abbiamo capito, ma Luca, per lei non sono sufficienti? No, innanzitutto buongiorno e grazie per l'opportunità. E, secondo me sono poche, perché bisogna tenere conto che chi ha cartelle pregresse da Equitalia molto spesso non è perché è considerato un evasore, ma è perché non è riuscito a pagarle. Certo, è in difficoltà. Quindi 5 rate probabilmente non riuscirebbero neanche comunque a pagarle, e contestualmente se prova a fare questa rottamazione, chiamiamola così, e poi non riesce a pagarle, decade anche dall'attuale rateizzazione che sta effettuando. Fermo lì, Luca. Ci metto insieme anche Mario da Roma. Velocissimo, Mario, così Rosanna Cerno risponde ad entrambi. Mario. Sì, buongiorno a tutti. Io ho già rateizzato una cartella e ho già cominciato a pagare nel 2016. Volevo sapere se sono escluso dalla possibilità di evitarmi gli interessi, tipo rinegoziando il pagamento. Quello che sta già rateizzando. Mario, grazie. Dottoressa Cerno, abbiamo un minuto se ce la fa. Sì, allora velocissimamente, riguardo all'ultimo radioascoltatore, chi ha una dilazione in corso ancora nel 2016 e sta pagando può comunque rottamare, a condizione che paghi tutte le rate fino a dicembre 2016. Quindi l'istanza viene fatta ad Equitalia, Equitalia riammetterà alla nuova rottamazione con una nuova dilazione. Però ecco una cosa, bisogna dirla, che chi ha già una dilazione in corso, pur potendolo fare, non avrà tutta questa convenienza, perché gli importi già pagati a titolo di sanzioni e interessi di mora, che invece vengono sfalciati con la rottamazione, non vengono restituiti, certo. Quindi è soltanto sul residuo che si faranno i nuovi calcoli. Per lei 5 rate sono poche? In verità, devo essere sincera, con questo nuovo emendamento si è raggiunto un ulteriore traguardo, perché prima, che erano 4 le rate, in verità si dava anche molta discrezionalità ad Equitalia, cioè non si capiva quando si dovevano pagare queste rate. Adesso invece è stato fissato un paletto, magari non è sufficiente, però è un passo in avanti, perché la legge adesso fissa il termine delle rate, cioè vale a dire che le prime 3 rate vanno pagate nel 2017 per almeno l'importo del 70% e il 30% invece nel 2018. Allora, è tutto un po' complicato quest'ultimo aspetto, allora ci ritorneremo. Intanto grazie a Rosanna Cerno, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma con Nicoletta torniamo domani. Buona giornata a tutti.